Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Sette e trenta minuti, buongiorno a tutti cari ascoltatori, eccoci qua, scusate ma mi sto sistemando la postazione. Allora, cominciamo subito una nuova mattinata insieme, il buongiorno di Radio 24 nel weekend, si può fare, stiamo insieme fino alle 10, cominciamo subito con la rassegna stampa, quindi diamo un'occhiata ai giornali di oggi, poi i nostri approfondimenti dopo il giornale radio delle 8, 349-238-6666 per i vostri sms, anche su WhatsApp, la pagina Facebook si può fare, trattino Radio 24, l'account su Twitter è chiocciola si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Vai, iniziamo. E allora, stavo dando un'occhiata ai titoli, alle aperture che oggi, come in altre giornate, in altri casi, ma oggi in particolare, sono anche molto diverse tra i vari giornali che scelgono di approfondire notizie diverse, che è un bene, quindi tra poco li leggiamo molti. I temi più battuti naturalmente sono... la questione della legittima difesa, la legge approvata alla Camera su cui dopo un accordo evidentemente che c'è stato al momento della votazione, adesso c'è quasi un disaccordo generalizzato per la questione terminologica, ma secondo qualcuno di sostanza, della distinzione tra giorno e notte che creerebbe confusione, diciamo, nell'alleggerimento delle responsabilità di chi reagisce all'interno dello schema della legittima difesa sparando, nel caso ferendo addirittura anche mortalmente l'eventuale aggressore. Però la chiusura delle elezioni, scusate, della campagna elettorale in Francia, la nube tossica o presumibilmente tossica a Roma, infatti. Per esempio il Corriere a centropagina, incendio a sud di Roma, le fiamme in un deposito di plastica, finestre chiuse e rischio amianto per la nube nera. L'incendio di ieri è avvenuto nei capannoni della Eco X, azienda di stoccaggio e smaltimento rifiuti speciali di Pomezia, ha provocato un'immensa nuvola di fumo che ha coperto il cielo dal litorale fino ai castelli. La ASL dice... il rischio di inquinamento da amianto e... se trovo la prima pagina del Messaggero, quotidiano romano, la trovo, eccola qua. L'argomento è ancora più centrale, rogo a Pomezia, paura a Roma, rischio di amianto nella nube. È ancora presto per capire quanto questa nube sia... È chiaro che... Insomma, respirare, fare un aerosol di quella roba lì sicuramente non è una cosa positiva. Di lì a dire sulla tossicità e sulla gravità di questa cosa bisognerà aspettare che arrivino le analisi dell'ARPA e purtroppo ci vuole un po' di tempo. Quindi, insomma, ancora un po' di attesa per capire la gravità di questo incendio e anche le cause. Ignorate le denunce dei residenti, un disastro che si poteva evitare, scrive il Messaggero. Il comitato di quartiere aveva scritto al sindaco e ai vigili: la nostra salute è a rischio. E poi la fuga degli abitanti da case e scuole, non siamo riusciti a portare via nulla. E insomma, nel giro di 2 chilometri c'è stata una evacuazione, quindi immaginate anche il disagio di chi abita in quelle zone. E che altro ancora sui giornali di oggi? La questione, per esempio, dei manichini apparsi a Roma con questa macabra messa in scena che alcuni possiamo dirlo, malati di mente, che pensano di essere dei tifosi ma sono solo dei mentecatti, hanno pensato di fare uno sfottò con quella appunto macabra rappresentazione dei manichini appesi con le maglie dei giocatori della Roma. I tifosi laziali hanno detto, ma insomma tutto questo scandalizzarsi, tutta questa strumentalizzazione, tutto questo allarme era solo uno sfottò. E poi c'è anche la nota della Lazio, andiamo subito a leggerla, vai questa prima di andare poi sugli argomenti importanti, così ci togliamo il dente. La nota della società della Lazio è, non so, giudicate voi se è meglio, se era meglio non farla, perché prende le distanze da ogni forma di violenza e dice però, fermo restando che da sempre dopo ogni derby ci sono sfottò ed episodi goliardici. Allora, se questo è un episodio goliardico, io sono Wanda Osiris reincarnato in Alessio Maurizi, perché insomma, giudicate voi se questo può essere definito un episodio di goliardia. Assolutamente no, una cosa stupida, macabra, triste, squallida, da cui prendono le distanze tutti, ma varie dichiarazioni, ve le leggo alcune giusto per così. Dice Mikhailovic, nel calcio si stanno superando tutti i limiti, sono colpito da questa storia, sono cose che fanno paura, ha ragione. Quando Messi, dice Capello, ha segnato il gol al Real, il pubblico lo ha omaggiato, questo è lo sport che vogliamo vedere, non altro. Sì, però giustamente ci ricorda Dino Zoff, è ipocrita scandalizzarsi, perché queste sono cose che succedono da tempo e si fa sempre finta di nulla, si chiude sempre gli occhi di fronte a tutto e addirittura, come in questo caso, la società, anziché prendere le distanze, punto, da questa cosa qua, prende le distanze, dice sì, fermo restando però che ci sono sempre stati episodi di goliardia. Una cosa che era meglio non prendere la penna e scriverlo questo comunicato. Va bene, andiamo però sugli argomenti, sui titoli dei giornali, così facciamo una carrellata. Partiamo dal Corriere, che sulla questione della legittima difesa scrive: sale la tensione tra Renzi e il governo, l'ex premier, non reggiamo un anno così. L'altro titolo principale è sulle elezioni in Francia, ultimo giorno di campagna elettorale, addirittura uno scandalo, anche in questo caso rubate le mail di Macron, lo staff del candidato denuncia, vogliono falsare il voto come negli Stati Uniti, le polemiche della vigilia e le minacce dell'ISIS. Marine Le Pen contestata a Reims, nella cattedrale di Reims, è stata costretta alla fuga. Alle elezioni in Francia dedica la pagina d'apertura in una parte anche Repubblica, l'ultimo miglio di Macron per saldare la frattura della Francia, con interviste a due scrittori, Holbeck e Daniel Pennac, entrambi schierati però a favore di Emmanuel Macron. Poi andiamo su La Stampa, che sceglie invece di titolare su un altro argomento, che è questo: migranti, cambiano le regole, le ONG messe sotto controllo. La proposta del Parlamento al governo, che vuole affidare la regia di questa questione alla Guardia Costiera. Non c'è ancora un testo scritto, tra poco vedremo di che si tratta. È però un argomento che naturalmente conquista l'interesse e l'attenzione della stampa in prima pagina, perché se ne è parlato molto e adesso appunto si parla di questa ipotesi di rivedere un po' le regole, perché insomma, di fatto sulle nostre spalle dell'Italia ricade comunque il controllo di quella parte di Mediterraneo e quindi bisogna trovare delle contromisure, che si creda o no, che si dimostrino o no le accuse di Zuccaro, il PM di Catania, sulle possibili infiltrazioni di scafisti nelle ONG o addirittura finanziamenti da parte dei trafficanti di esseri umani a queste organizzazioni non governative, alcune delle quali tra l'altro non rendono noto del tutto chi sono i finanziatori, trincerandosi dietro questioni di privacy da parte, per proteggere la privacy di chi fa queste donazioni. Altre aperture sulla questione della legittima difesa, per esempio il Fatto Quotidiano la mette giù così: illegittima difesa, Renzi rinnega il PD e vuole peggiorarla con Berlusconi. Questo è il punto di vista del Fatto Quotidiano. Questa è una legge, questa sulla legittima difesa, che è nata da un'intesa tra il PD e Forza Italia. Forza Italia poi però l'ha appunto rinnegata a mezza strada. Adesso è Renzi a dire bisogna cambiarla, dopo che è scoppiato questo polverone sulla questione giorno-notte. Adesso Renzi, che vuole intervenire per cambiarla, secondo il Fatto Quotidiano vuole rinnegare il PD, quindi la mediazione a cui si è giunti a questo punto, per peggiorare questa legge sulla legittima difesa con Berlusconi. Spaghetti Western è il titolo del manifesto, tutti contro la legittima difesa targata PD, Alternativa Popolare, cioè Renzi e Alfano. L'ANM dice bisogna cestinarla, Grasso, il Presidente del Senato, meno male che c'è il Senato. A Renzi non bastano gli spari notturni, ma Forza Italia e Lega alzano il tiro. Allora vediamo di che si tratta, andiamo a leggerlo con sul Corriere della Sera. Il testo che ora passa al Senato prevede due novità rimaste nell'ombra, perché si è parlato appunto del caso giorno-notte, di cui ancora adesso anche andremo a vedere, ma insomma le due novità rimaste nell'ombra secondo il Corriere, ma che sono la sostanza di questa legge, sono: al cittadino prosciolto perché ha esercitato una legittima difesa in casa verranno rimborsate le spese legali. Inoltre, il ladro eventualmente ferito durante un'intrusione violenta non potrà avvalersi civilmente, anche se chi ha sparato in casa ha commesso un errore di valutazione, cioè la persona ferita o addirittura i congiunti di una persona uccisa durante un'intrusione in casa da parte di una persona che ha sparato commettendo un errore di valutazione, ma in preda a un grave turbamento, ecco, questi qua non potranno rivalersi civilmente, cioè chiedere un risarcimento su chi ha commesso l'errore. L'esclusione della colpa infatti impedirebbe a chi subisce una lesione o addirittura perde la vita di rifarsi sui beni di colui che ha sparato per difendersi in casa propria. Ma qual è il punto della discordia? È questo. A Renzi non è andata giù la confusione sulla presunta difesa legittima che scatta in casa solo, virgolettato, di notte. Parola che pronostica il relatore del PD Davide Ermini, sarà cancellata. In realtà il tempo di notte, come è scritto nel testo, è condizione, qua bisogna fare un piccolo sforzo di concentrazione e di fantasia, il tempo di notte è condizione sufficiente ma non necessaria per far scattare la legittima difesa, cioè basta il fatto di essere di notte per far scattare la legittima difesa ma non è necessario, quindi può scattare questa legittima difesa anche di giorno, quindi non c'è nessuna distinzione giorno-notte in questo senso, c'è una, se volete, una aggravante sul fatto della notte. E infatti vediamo ancora come il Corriere puntualizza questo il punto centrale poi della novità di questa legge sulla legittima difesa, che insomma, alleggerisce un po' il carico per chi commette un errore di valutazione ma essendo in casa propria viene doppiamente legittimato a difendersi, mettiamola così. Scrive il Corriere: chi usa armi legalmente detenute in casa propria per difendersi da un'intrusione violenta può essere indotto in errore se in quel momento è dominato da grave turbamento. Ora, con l'esclusione della punibilità per chi si trova in questa condizione psicologica, è previsto uno strumento in più per valutare la legittima difesa. L'Associazione Nazionale dei Magistrati, però, bisogna dirlo, parla di una nuova categoria giuridica che metterà a dura prova i giudici e che rischia di creare confusione. Qualche dichiarazione su questo argomento prima di lasciarlo. Renzi dice: inviterò i senatori a valutare di correggere la legge nella parte in cui risulta meno chiara, visto che io per primo ho avuto dubbi. Alfano invece è entusiasta: questo nuovo testo è un successo, al punto in cui siamo sarebbe dai responsabili insabbiarlo o farlo decadere, ma è molto probabile però che questo accada, aggiungono molti commentatori, e ve lo dico io perché, visto il polverone che è stato sollevato, visto che non soddisfa nessuno, visto che questa legge doveva essere anche un momento di semi-unità, non dico nazionale, ma parlamentare, tra il PD e Forza Italia. Forza Italia l'ha abbandonata, quindi credo che Alfano, la sua speranza che il testo non venga insabbiato, possa ragionevolmente andare delusa, ma questa è una previsione che potrebbe rivelarsi sbagliata. Salvini, ma il leader della Lega Nord, dice: se vanno avanti con questa schifezza raccogliamo le firme per un referendum che cancelli il nuovo testo. Berlusconi, il PD e le altre forze di maggioranza non hanno saputo o voluto scrivere una legge che rispondesse davvero alle esigenze dei cittadini onesti. Da capire se questa dichiarazione di Berlusconi è sincera, oppure se invece, come sembra, il testo non è cambiato da quando era uscito con l'appoggio di Forza Italia, e quindi questo smarcamento è puramente politico, strumentale, strategico, tattico, chiamatelo come volete, da parte di Berlusconi. 349-238-6666, siamo qua per leggere anche alcuni dei vostri SMS. Traffico, torniamo tra un attimo. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Messaggi al 349-238-6666, c'è chi dice ironicamente meno male che il Senato c'è, allora aboliamo la Camera. A proposito della questione sulla legittima difesa che abbiamo appena letto, deve passare al Senato, lì si annunciano modifiche per togliere i margini di dubbio su questa questione giorno-notte, ma è probabile anche che la legge si fermi lì. Poi c'è chi dice: non hai spiegato cosa è successo con sti manichini. Allora, io pensavo, giusto per questo ascoltatore, che forse è rappresentativo di una casistica più ampia, io pensavo che il fatto in sé fosse più o meno noto, visto che da ieri che, ahimè, se ne parla. È successo che sono stati appesi 4 manichini con le maglie di 3 giocatori della Roma, uno senza maglia, la notte scorsa, con un cartello scritto a caratteri cubitali: un consiglio senza offesa, dormite con la luce accesa. E questi 4 manichini appesi con le maglie, appunto, i giocatori della Roma. Una goliardata, secondo questi tifosi della Lazio, che hanno rivendicato gli irriducibili della Nord, una cacchiata terribile, una cosa da mentecatti, che non ha fatto ridere nessuno, perché insomma lo sfottò deve far ridere, la goliardata deve strapparti la risata, no? Ma qua cosa cavolo ci sarà da ridere? Allora, io poi ho preso spunto semplicemente per aggiornarvi sulle dichiarazioni e per dire che la nota della Lazio, Società Calcistica Lazio, è peggio del fatto, secondo me, ma poi me ne assumo la responsabilità, giudicate voi. Una società che invece di prendere distanza, appunto, dice: prendo le distanze, fermo restando che fatti di goliardia ci sono sempre stati. E quindi si dà per scontato che questo sia da annoverare tra questi, fatti di goliardia. Ma che cavolo di goliardia? Ma dove avete vissuto? Ma come l'avete vissuta la goliardia? Non è questa, dai. Allora, quindi abbiamo riepilogato anche per questo ascoltatore, che adesso, secondo me, mi sta ringraziando su WhatsApp per la precisazione. Era dedicata a lui, ma anche a quelli che non avevano avuto, diciamo, il fatto chiaro nelle loro menti. Allora, dove vi porto? Perché ci sono tante cose. Allora, sulla questione migranti, La Stampa, sulla questione migranti, il titolo principale della Stampa è questo: migranti cambiano le regole, le ONG messe sotto controllo. Questa è la proposta del Parlamento che arriva al governo, secondo queste indiscrezioni che vengono riportate alla Stampa, che scrive: non c'è ancora un testo che metta per iscritto le conclusioni dei senatori della Commissione Difesa, che stanno studiando il lavoro delle ONG in alto mare, ma sta prendendo corpo un'idea per mettere ordine in una situazione caotica, considerando l'enorme responsabilità italiana che de facto deve garantire il soccorso su 1.100.000 chilometri quadrati di mare. Occorre che ci sia una salda regia, e questo è il punto centrale di questa presa di posizione del Parlamento che arriverà al governo. Il regista delle operazioni di ricerca e soccorso in mare è giusto che sia della benemerita Guardia Costiera. Questo è quanto il Parlamento proporrà al governo. Alla Guardia Costiera verrebbe dunque affidato un ruolo di regia attiva. Non può continuare la prassi dell'attesa passiva dietro i telefoni, aspettando le telefonate satellitari che implora il soccorso da parte di un barcone di migranti, e nemmeno la comunicazione burocratica da parte delle navi umanitarie che si trovano in posizione avanzata a largo di Tripoli, al limite delle acque territoriali libiche, una volta che sono loro ad effettuare gli avvistamenti. Tradotto, si torna alle missioni attive nelle quali la Guardia Costiera va al posto di queste ONG, visto che ci sono dubbi sulle ONG, allora ci deve andare la Guardia Costiera. L'alternativa non può essere fare finta di nulla, perché non è possibile, non è possibile dal punto di vista umanitario, non è possibile dal punto di vista del diritto del mare e non è possibile soprattutto che affondino, come è successo e come succede ancora, tutte queste navi cariche di persone, sono soprattutto delle persone. Questo è quello che secondo la stampa sta per accadere, cioè un cambio delle regole su questa questione che ridia protagonismo alla Guardia Costiera. Invece un altro ascoltatore mi dice: non hai letto il titolo più importante, tracce di cocaina nei bagni del Parlamento. E allora vediamo, perché in effetti questo è il titolo di prima pagina di Libero, che dice: cocaina in Parlamento, adesso si spiegano certe leggi. Che poi cocaina in Parlamento è da mo' che se ne parla, cocaina ovunque, mica solo in Parlamento, cocaina da tutte le parti. Nel giro di 100 metri intorno a me ci sarà qualcosa di cocaina sicuramente. A più di 10 anni dal servizio delle Iene, che rivelò che un onorevole su 3 era positivo al test antidroga, la nuova rivista Millennium scopre che nei bagni di Montecitorio, tra una votazione e l'altra, qualcuno sniffa. E questo è diciamo lo scoop, il titolo, la notizia più importante di Libero oggi in prima pagina. Così abbiamo accontentato anche questo ascoltatore. Invece volevo trovare anche, se lo trovo, il giornale, dove è finito, vabbè, eccolo qua. Il giornale fa un'altra apertura e mette insieme la questione dei manichini, dicevamo, a Roma, con una foto di quello che accade in Piazza Indipendenza a Roma. Ci sono scene di sesso in Piazza Indipendenza a Roma, due persone buttate in terra in mezzo ai rifiuti, si vede una mezza scosciata. E così purtroppo è ridotta l'Italia, paese allo sfascio, tra degrado e inciviltà abbiamo toccato il fondo. Sì, d'accordo con gli amici del giornale, sono scene di degrado assoluto queste di cui parlano loro, però certo, dire che l'Italia è ridotta così perché ci sono due sdraiati in Piazza Indipendenza a Roma, sai quanti te ne trovo sempre e comunque in tutta Italia, ma anche prima di ieri, insomma. Siamo sempre ridotti così, no, non si può forse fare una generalizzazione di questo tipo. Semmai così è ridotta Roma, perché sono due episodi che riguardano Roma in questo caso. Comunque, prendiamo atto. Trovata cocaina in Parlamento è il secondo titolo però anche del giornale, sì. Tracce di droga nel bagno degli onorevoli ed è bufera. Un sondaggio sul Corriere può essere interessante. Come sempre il Corriere nel fine settimana monitora le intenzioni di voto dei cittadini, degli elettori, e c'è una risalita del PD sopra il Movimento 5 Stelle, che lo aveva superato 10 mesi fa. Invece l'effetto primario, secondo Pagnoncelli, è questo: 1.800.000 elettori, pochi secondo alcuni, tanti secondo altri, perché comunque se ne aspettavano meno. Fatto sta che per una buona larga dell'opinione pubblica ha stravinto Renzi, hanno votato in molti, ciò si riverbera sulle intenzioni di voto post primarie, che fanno registrare una crescita significativa del PD, che oggi si attesta al 30,4%, in crescita di 2,8 punti rispetto al mese di aprile. Quindi si osserva il contro sorpasso sui 5 Stelle, che sono al 30,2%, questo secondo Pagnoncelli. Titolo del Sole 24 Ore: sulle materie prime, il petrolio è sceso, materie prime in caduta, torna la tensione sul greggio, ieri petrolio in recupero, la speculazione dei fondi. E questa è una notazione per quanto riguarda l'andamento dei mercati. C'è però la notizia importante di cronaca di ieri, che è su quasi tutti i giornali di oggi: diede fuoco a Sara, i giudici gli danno l'ergastolo. Insomma, una pena esemplare, giusta per una volta, giusta, insomma, non ci sono in questo caso margini di dubbio, eh. Dura pochi secondi la lettura della sentenza che può tenere in carcere per il resto della vita Vincenzo Paduano. Pochi secondi erano bastati invece a lui per strangolare Sara di Pietrantonio, 22 anni, e sua ex compagna, poi dare il suo corpo alle fiamme. Ergastolo, accolta la richiesta dei PM che contestavano l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili abietti motivi e dagli atti persecutori, oltre che la distruzione del cadavere, decisive per far cadere la linea difensiva del raptus improvviso, le frasi su Facebook. «Perché vuoi uccidermi?» chiedeva lei. «Servirebbe a qualcosa?» rispondeva lui, che poi aggiungeva: «Quando il marcio è radicato nel profondo ci vuole una rivoluzione, tabula rasa, diluvio universale». Quindi niente attenuanti. Ergastolo. È una delle prime volte, forse, una pena così. Del resto il delitto d'onore in Italia è stato abolito solo nel 1981, non è tanto, ma per fortuna si cominciano a vedere i risultati dell'applicazione della legge, che cambia. C'è il GR, ci risentiamo dopo con Si può fare. Ciao. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Voci dal Giro. Seconda tappa oggi del Giro d'Italia, ieri l'avvio dominato da una maglia rosa a sorpresa. Meglio le sorprese di ieri, quelle date all'austriaco sconosciuto Lukas Postberger, prima maglia rosa del Giro delle 100 edizioni, che lo scherzetto tutt'altro che gradito di Ruffoni e Pirazzi, che si sono fatti cacciare dal Giro prima ancora di partire per questioni di doping. Meglio la sorpresa austriaca, senza dubbio, tutti aspettano i pezzi del 90, gli uomini jet, e a vincere è uno di quelli che come ruolo ha quello di aiutare il proprio velocista a centrare l'obiettivo. Ma l'austriaco, suo malgrado, si trova davanti mentre le sue spalle traccheggiano. Così l'MLM 4-4, tra lo stupore generale e il carneo austriaco, va a cogliere la prima rosa. Oggi seconda tappa, da Olbia a Tortolì. Tappa lunga, logorante, giornata impegnativa e soprattutto intensa, in particolare per i 27 km della salita di Genna Silana, con scollinamento posto a 47 km dal traguardo, quasi completamente in discesa, pendenze molto dolci, senza dubbio che però potrebbero sfoltire non poco il gruppo. Potrebbe anche arrivare una fuga. Pier Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Olbia. Voci dal Giro, in collaborazione con... Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Si può fare... Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 8:18 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Carlo, Milano-Monterosa? Oggi non posso dire che ci sia il sole, no. Al momento non piove, ma... Ma è come se piovesse. Butta pioggia. Grigetto qua, grigetto là, un po' in tutta Italia e andrà avanti freddo, così. Freddino, fino hanno ad riacceso... agosto, credo, esatto. Quando poi finirà l'estate. Addirittura hanno riacceso dei caloriferi, sì. di posti, insomma, giustamente, dove ci sono gli anziani, un po' meno giustamente, dove qualcuno può anche infilarsi sopra un golf. E parlo di me stesso, perché anch'io mi lamento del freddo. Da noi non sono stati riaccesi i caloriferi. Neanche da me. Freddo, da molto freddo, però pazienza, per qualche giorno. Ce la caviamo. Beh, insomma, è stata una settimana pesante. La Corea che accusa gli Stati Uniti di voler fare fuori Kim Jong-un. La legittima difesa, i manichini a Roma, la storia terrificante. La nube nera. I giocatori della Roma, la nube della la fabbrica di plastica, che come unica risposta è stato detto: tenete le finestre chiuse. Che devo dire che non è esattamente una prevenzione incredibile, però insomma. Insomma, ragazzi, allora ci proviamo a girare il verso della settimana. Cioè, quando spiego agli ascoltatori che per Alessio, quando dice una settimana difficile, è difficile trovare dei si può fare in tutte queste notizie, perché le notizie ovviamente diamo quelle che ci sono, però riuscire a trovare il lato buono, il lato positivo, riuscire a scovare dove invece si è risolto un problema in maniera innovativa, diversa, e quindi contenendo un si può fare, è molto difficile. Infatti, e quindi guarda, me lo fa pesare, giustamente, dice, certo, io tutta la settimana che cerco lavoriamo, di rendere, facciamo, ma... per rendere il mondo un posto migliore, un posto tra l'altro, migliore. Di questo si occupa Alessio e durante tutta la settimana. Gireremo alla larga da alcune di queste notizie e vi faremo conoscere, per esempio, un personaggio incredibile come Padre Solalinde, un uomo incredibile che viene dal Messico, in Arcos mi vogliono morto, un libro che sta scrivendo con una giornalista italiana di Avvenire, candidato anche al premio Nobel per la pace del 2017, che sarà in studio con noi. State con noi, assolutamente. E poi niente, sport e disabili in chiusura, un bel appuntamento a Milano. E ora cominciamo invece con una svolta che riguarda Roma. Quello che si mangia nelle mense scolastiche, quindi 800 24 00 24, cominciate a digitare il numero per fare i vostri interventi su questo argomento che vi tocca, ci tocca sempre tutti. E poi il gioco. E poi il gioco, perché è sabato. È sabato e quindi vi vogliamo con noi. Questa settimana c'è Totti che annuncia l'ultimo anno, cioè le ultime partite. Non l'ha annunciato lui, l'ha annunciato con tutto, che c'è stato tutto anche quel Totti Gate, che dura in realtà da molti anni. Non solo perché lui, l'ultimo però arriva come direttore, ha detto sarà l'ultimo anno. Non solo lui, perché anche Filippo d'Inghilterra, che però ha un'età, il principe consorte, ha un'età. Annunciato, insomma, anche lui è stato detto che si ritira a vita privata. Allora vi chiediamo, chi mandereste in pensione meritata o anticipata, fate come volete voi in questo momento, dal vostro capo ufficio perché vi sta sulle scatole o perché vi tratta male, fino a Berlusconi che sta tornando. Accettiamo anche storie personali, è questo che stai dicendo. Guarda che Berlusconi sta tornando, è lì che continua, cioè sta montando. Volete che torni Berlusconi? Può darsi. Oppure volete mandarlo poi in pensione? Grillo, Renzi, prepensionamento. Io direi Totti in giro con la regina e Filippo d'Inghilterra alla Roma. 800 24 00 24. I conservanti, amico, fanno male, te vanno manna puro all'ospedale. La gente è vero è sempre capocciuna, e su ste cose proprio non ragiona. Ma che non ce lo sai, la roba ghiotta non è quella che trovi già precotta. Il piatto fatto in casa non se batte, de certo è meglio delle scatolette. Meglio perderci più tempo che mangiare le porcherie. E si cucini, poi sta sicuro che un t'avveleni. Assessore alla scuola e alle politiche sociali del Comune di Roma, Laura Valdassarre, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ha sentito? Siamo partiti con gli stornelli romani perché... Grazie. Ve l'abbiamo dedicato, la svolta nel Comune di Roma che cambia tutto, un bando nuovo per l'assegnazione del servizio di gestione delle mense scolastiche nelle scuole materne ed elementari, appunto del Comune, con dei criteri nuovi. Si punta sulla qualità, assessore, cibo biologico, chilometro zero, addirittura eco solidale, insomma di tutto di più. Una bella scommessa, perché si sa, normalmente nelle mense, soprattutto quelle scolastiche, pubbliche, eccetera, non sempre la qualità vince. Come mai a Roma avete deciso di cambiare verso, per usare un'espressione renziana? Non si offenda, No, assolutamente. Io mi scuso per la voce, non per gli stornelli, ma sono senza voce stamane. Però, allora, innanzitutto di che cosa parliamo? Noi parliamo di un servizio che riguarda sia i nidi che appunto le sezioni primavera e ponte, le scuole di infanzia, sia comunali che statali. Le primarie e secondarie di primo grado, quindi parliamo di circa 144.000 pasti erogati ogni giorno. Quindi queste sono le cifre. Allora, noi quello che abbiamo fatto è stato appunto approvato in Assemblea Capitolina questa settimana una delibera proposta dalla Giunta, che sostanzialmente cerca, come ricordavate, di porre dei criteri per il prossimo bando di gara che riguarderà i prossimi 3 anni, e per porre dei criteri di qualità, perché Va detto chiaramente, cioè il pasto a scuola non deve essere soltanto il soddisfacimento, direi così, di un fabbisogno nutrizionale, ma è un momento molto importante per l'educazione didattica, alimentare. Fa parte della didattica. Assolutamente, però noi adesso, rispetto a quello che lei mi chiedeva, noi abbiamo fatto delle scelte molto precise rispetto innanzitutto a confermare e anche ampliare l'utilizzo di prodotti di origine biologica, questo proprio per garantire appunto i bimbi, i ragazzi, e quindi poi le famiglie, tutti i prodotti, gli altri poi prodotti anche sia DOP, GP, quindi le altre forme di qualità, no? E soprattutto una filiera corta locale. Abbiamo previsto che queste derrate alimentari devono appunto, sia per quanto l'intero ciclo di produzione sia di trasformazione ma anche confezionamento, debba avvenire entro 300 km linea d'aria dal Campidoglio, quindi questo è il discorso di ridurre quanto più possibile anche il tema del trasporto. Ma non sono tantissimi 300 chilometri? Questo, guardi, parliamo di 144.000 pasti, quindi l'ammontare delle derrate alimentari è notevole, quindi noi abbiamo dovuto anche imporre dei criteri che siano poi sostenibili. Ma non è dove vengono impacchettati i pasti? Un approfondimento, no, l'intero, noi abbiamo previsto, allora ci sono due atti, questo della delibera, cioè l'intero ciclo di produzione, no? Trasformazione. La parte importante è che anche per quanto riguarda i mezzi di trasporto noi abbiamo previsto anche un'attenzione che il 50% almeno avvenga su ferro, su veicoli Euro 6 e veicoli per non inquinare, per non contribuire all'inquinamento. Però... Sì, questa è una parte sulla tutela ambientale, sì. Abbiamo fatto tutto rispetto alla domanda che ponevate, tutto quello che è possibile fare. Però le voglio fare una domanda, assessore, perché quello che celebriamo questa, che è un'ottima notizia, però poi sotto sotto uno si domanda, ma non è che aumenteranno i costi, ci saranno delle ricadute per esempio sulle rette dei genitori, no, perché la qualità costa, no? Assolutamente, non ci saranno delle ricadute sulle rette dei genitori, quindi questo diciamolo forte e chiaro. Quanto costa oggi un pasto, non lo so, facciamo media una scuola materna per un bambino della scuola materna tutto l'anno, quanto spende e quanto spenderà? È la stessa cifra? Guardi, esatta? Sostanzialmente diciamo il costo del pasto viene stabilito annualmente. Pronto? Caduta la linea, quando si parla di soldi, quanto costa il pasto? È caduta, vabbè. Allora, adesso recuperiamo, spero, credo, l'assessore. Forse ha avuto un avviso di chiamata da Grillo e quindi ha dovuto attaccare. No, perché la questione dei costi c'è. Noi ne abbiamo parlato, per esempio, a Milano, che possiamo vantarci che siamo avanti su questo. No, non vantiamoci, in realtà questo annuncio del Comune di Roma è molto, come dire, di buon auspicio, ma punta molto in là. È biologico, cibo a chilometro zero, equo solidale, forse addirittura più di quello che si fa adesso a Milano. Però Milano Ristorazione, che ha comunque un'attenzione su questi temi già da tempo, sulla questione dei costi c'è stata un po' di polemica perché qualche rincaro c'è stato. Allora proviamo a riprendere l'assessore dopo la pubblicità. No, ce l'abbiamo? L'abbiamo forse in linea, sentiamo se è un problema suo, è stato un problema nostro, ce l'abbiamo, se no andiamo in pubblicità e ditemelo. Assessore, eccola. No, è un problema suo evidentemente, allora andiamo prima in pubblicità e poi torniamo. Intanto io agli ascoltatori chiedo 800 24 00 24, se vogliono raccontarci le storie di quello che accade nelle loro città, perché sappiamo ci sono genitori in commissione mensa che monitorano ogni giorno quello che si mangia. C'è stata la questione di Firenze dove i genitori hanno detto troppa quinoa, poca carne, vi ricordate? Poter decidere il menù. C'è la questione di Milano dove si annunciano pasti poco o per niente salati, con zero sale, perché il sale fa male ai bambini, ma anche qui ci sono genitori che dicono ma il mio bambino zero però non mangia più. Zero sale, rischi di mangiare della roba non buonissima, insomma, zero, stavo dicendo zero. 800 24 0024. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, niente, niente da fare. L'assessore Baldassarre di Roma, se qualcuno è lì con lei, dia una gomitata. Oh, guarda che a Radio 24 vorrebbero finire l'intervista, ma evidentemente è entrata in un cono d'ombra. È peccato, perché ma le cose che volevamo chiedere. Il cono d'ombra è la domanda sui risparmi. E quanto, esatto, quanto, no, perché poi se non sono le famiglie a sobbarcarsi un costo maggiore per la maggiore qualità dei pasti nelle mense scolastiche del Comune di Roma, sarà sicuramente il Comune a spendere qualche cosa, certo, di più. Basta saperlo, basta dirlo, perché è inevitabile. Se vuoi un cibo di qualità, probabilmente lo pagherai qualche cosa di più. Quindi è un investimento che il Comune fa. Vero, vero. A me spiace, perché gli avrei voluto chiedere di come mai questa centralizzazione, perché ci sono state anche alcune critiche, ovvero i pasti a Roma prima invece erano i singoli istituti che se li gestivano internamente, con alcuni risparmi che facevano poi riuscivano a fare una proposta didattica aggiuntiva agli studenti. Invece in questo modo tutti i risparmi che si faranno andranno al Comune, e quindi diciamo che è una cosa che non mi sarei aspettato dal Movimento 5 Stelle, il fatto di accentrare, statalizzare 144.000 pasti al giorno invece che lasciarli a delle realtà locali, se vogliamo, sì, dire. Poi però mi incuriosiva sapere. Le avrei chiesto anche se così sarà ammissibile portarsi il cibo da casa, come il famoso panino da casa, come è avvenuto dopo alcune sentenze, per esempio a Torino, in casi, certo, particolari anche a Milano, che questa pure è stata una battaglia del Movimento 5 Stelle. E poi c'è chi chiede di assumere i cuochi, il personale che eventualmente dovesse perdere il lavoro, che già sta lavorando, quindi un'attenzione anche per il personale che già sta lavorando. 800 24 00 24, cari ascoltatori, invece, se ci volete raccontare come va nelle vostre città con le mense scolastiche, con le mense pubbliche, e se invece siete a Roma, se questo si può fare, che vi abbiamo proposto stamattina da parte dell'assessore, vi ha convinto. E poi c'è un ascoltatore che dice, a proposito del gioco, stai rosicando perché Berlusconi sta montando, perché io ho proposto di mandare Berlusconi in pensione. Non è che sto rosicando, sto dicendo, volete seriamente che torni Presidente del Consiglio un uomo di quasi 80 anni che ha governato per tanti anni in passato? Questa è una domanda che possiamo, io personalmente no, questa è la mia, se vuoi, proprio caro ascoltatore, se vuoi la risposta. Però oggi vi chiediamo, chi vorreste mandare in pensione anticipata o no, visto che Totti ha annunciato il ritiro, lo stesso principe consorte Filippo Inghilterra, è settimana di prepensionamenti. 800 24 00 24 ci ha chiamato Egle da Trapani. Buongiorno. Allora, io vorrei mettere in pensione Bruno Vespa, perché sono ormai lustri e decenni che occupa sempre la stessa posizione, e si sono alternati i governi e lui non è stato mai toccato. È andato in pensione anche Letterman, no? Mi pare, sono andati in pensione un paio di anchorman di quelli americani che hanno iniziato forse dopo di Bruno Vespa, e sono andati in pensione. Lui invece sembra che abbiano fatto un patto con la fortuna, quindi non lo so, perché altri hanno avuto insomma degli iter un po' più complicati. Diciamo che Bruno Vespa però è ancora dignitoso, forse. Ci sono altri che lo sono. Proprio Costanzo, secondo me, dovrebbero consigliare. Insomma, sarebbe anche gradito a me. Va bene, accettiamo la candidatura del prepensionamento, direi che non si possa dire, direi pensionamento, sì, dopo onorata carriera di Bruno Vespa. Potete anche dire Maurizio Gabardini, certo, non ci offendiamo. Tra l'altro io sarei anche contento di andare in pensione, secondo me io ho dato quello che potevo dare. Flavio dalla provincia di Milano. Sì, mi autocandido. Ciao ragazzi. Buongiorno. Vuoi andare in pensione? Sì, vorrei andare, ma mi autocandido, mi mando io in pensione dopo 42 anni. Sono 10 anni che mi mancano 2 anni per andare in pensione, perché prima Dini, aspetta, poi 39. Questa è molto buona. Questa non è male. Scusa Flavio, me la ridici? Sono 10 anni che mi mancano 2 anni per andare. Me la ridici? Sì. Sono 10 anni che mi mancano 2 anni andare in pensione. Perché quando arrivi lì, poi cambiano le regole, e ti allunga. Quanti anni hai? Che forse che proprio l'anno con te inizio a pensare, esatto, quindi esatto, no, perché vedo i miei amici che vanno in prepensionamento e pagati bene, cioè io veramente non ne posso più. Tra l'altro lavoro nell'artigianato, per cui c'ho il boss dietro le spalle che mi non mi saluta neanche, fai questo, fai quello, fai quell'altro, no, va bene. Quanti anni hai? 62, quasi quasi sono lì, dovrei farcela. Ma che lavoro fai? Io lavoro nella meccanica di precisione, per cui faccio un po' di tutto, essendo nell'artigianato faccio il jolly, cioè dal controllo numerico alle fatture, alle bolle, qualsiasi cosa c'è da fare, perché siamo in tre, per cui e dall'inizio ho sempre fatto questo tipo di lavoro, per cui sono abbastanza stanco. Pronto? Sì, sì, sì. No. Stavamo ascoltando che ci sembrava molto bello questa autocandidatura. No, discorso è che sono 40 anni che mi metto da parte i lavori da fare dopo, no? Che farei dopo, ma mi toccherà fare l'umarel e mi prendono tutti in giro i miei amici, no? Guarda che stanno costruendo qualcosa, stanno costruendo qui davanti a te, ti metterai lì a controllare i lavori, eccetera, eccetera. No? Certo, giusto. È solo che io, cioè, vabbè, adesso l'età comincia a farsi sentire. Vabbè, però sei giovane, ecco, io su questo voglio dire, hai lavorato tantissimo, quindi ci mancherebbe altro, ti sei meritato la pensione dopo 42 anni di lavoro, ci mancherebbe altro, però sei giovanissimo. Ci spero. Fattelo, ci spero, sì. Di avere la forza di andare di fare qualcosa anche per quello che mi piacerebbe fare, insomma. Perfetto, va bene, grazie Flavio. Grazie, ciao, a te. Ciao a tutti. Ciao, 800 24 00 24, chi vorreste mandare in pensione? Adesso continuiamo a parlare di cibo, perché c'è un evento che porta di nuovo Milano alla ribalta su questo. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che E l'evento bontà. Di cui parliamo, manca a farla apposta, lo sapete forse già, Tutto Food, una settimana dedicata al cibo, in particolare a Milano, dove ci sarà il vero e proprio evento alla Fiera di Milano, ma poi una settimana pazzesca, ci sarà anche Barack Obama che verrà qua per un meeting al Global Food Innovation, sempre alla Fiera di Milano. Sta arrivando, insomma, Barack Obama è annunciato, sarà qua lunedì, martedì. Giustina... E cosa fa Obama? Fa dei panini, fa degli hot dog. Vediamo cosa fa, si mette il grembiule. No, ma quella era Michelle, infatti è lei che avrebbe dovuto chiamare. Giustina Ligobbi, Exhibition Director di Tutto Food, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, una settimana, insomma, qui o sale la consapevolezza, si diventa tutti salutisti e vegani, oppure si diventa obesi, perché si sta una settimana a parlare solo di cibo a Milano. Assolutamente sì, assolutamente. La serata del 3, perché è iniziata il 3 di maggio, giusto, con un grande giusto. Evento fuori da Fondazione Feltrinelli che ha coinvolto tutta la città con perché musica, poi c'è il fuori cibo. Salone del cibo, bisogna dire. Certo, quest'anno c'è il fuori salone perché abbiamo lavorato insieme con il comune, con la regione, con Confcommercio per coinvolgere tutta la città, ma non solo, anche Regione Lombardia, perché abbiamo dei mini truck e dei minivan che vanno in giro per la regione, che torneranno a Milano proprio l'11 di maggio, quando si conclude Tutto Food, che è invece l'evento turistico che si svolgerà, inizia lunedì, dove tra l'altro sarà presente anche Radio 24, lo dico perché insomma saremo anche noi lì a trasmettere lunedì, martedì credo, ma anche mercoledì e giovedì con vari certo, programmi, sì, quindi sì. Insomma, ecco, se ci seguite se sentirete anche altre notizie su Tutto Food. Barack Obama, questo sarà un momento, una grande attrazione, ma in realtà, dicevamo scherzando, avrebbero potuto, ma ci sarà anche Michelle, forse era lei la vera attrazione, su era lei che si coltivava l'orto, no? Sì, ma non ci sarà lei, ci sarà il cuoco di Obama, quindi Sam Cass. Sì, ci sarà lui che parlerà all'interno di Season Chips, dove peraltro avremo numerose start-up internazionali, perché Tutto Food vuole rappresentare l'offerta non solo delle grandi aziende, ma anche delle piccole e medie aziende, e perché no, con Season Chips le start-up, e con Spazio Nutrizione la parte scientifica. Quindi una visione assolutamente completa di quello che è l'offerta e la domanda dell'agroalimentare. A proposito di Fish and Chips, sì. Quindi, ma il cuoco di Obama è nella sezione Fish and Chips? Sì, viene a fare uno speech in quell'area. E poi ci sono anche dei convegni in città, in Fondazione Feltrinelli, perché anche lì, all'interno di Milano Food City, il 4 di maggio sono iniziati dei convegni aperti al pubblico, convegni più mirati, e quindi direi che l'offerta che di Milano in questo momento è assolutamente completa. Si respirerà di nuovo un po' anche l'aria di Expo, forse, no? Quei grandi eventi, sì. È quello che poi succede col fuorisalone del design. Quest'anno sperimentiamo anche il fuorisalone del cibo, quindi ci saranno le edicole, per esempio, nelle quali si potranno fare delle tanto ormai le edicole, i giornali non li vendono, ahimè, che dobbiamo fare? Degustazioni nelle edicole, una delle novità di questa edizione. È la terza S, perché abbiamo la S del furniture, abbiamo la S del fashion e adesso abbiamo la S del food. Milano se lo merita dopo l'Expo del 2015. Ecco, resta ancora in collegamento con noi Giustina Ligobbi di Tutto Food, perché facciamo una piccola pausa per il traffico, poi torniamo e scandagliamo ancora un po' tra questa manifestazione che si annuncia vabbè, gustosa, golosa, è ovvio questa. Io voglio parlare dei broccoli di Obama. Ecco, questo è il fatto. È per quello che dicevo, come mai Obama, il cuoco di Obama era in fish and chips. Traffic. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Allora, in pensione mandiamo il bonzo Renzi, che in 3 anni di governo ha rovinato l'Italia, scrive Carlo da Pavia. C'è chi anche si candida, come ha fatto anche Flavio poco fa chiamandoci all'800 24 00 24, in pensione con 40 anni di contributi, punto, scrive Giuseppe da Varese. Vi chiediamo, cari ascoltatori, chi mandereste in pensione stamattina, visto che è la settimana in cui sia il Totti che il principe consorte d'Inghilterra Filippo hanno annunciato, anche se con età ovviamente diverse, di ritirarsi a vita privata, come ha fatto, ma in realtà non del tutto, Barack Obama, forzatamente dopo i 2 mandati presidenziali. Ci sarà lui, ci sarà il suo cuoco, avrebbe potuto esserci Michelle sicuramente, perché lei è stata leader della campagna Let's Move, della campagna contro l'obesità, contro infantile, l'obesità, Giustina Ligobbi, perché poi parliamo anche di questo, il tema è anche questo. Tra l'altro c'è una buona notizia questa settimana: in Europa è diminuita l'obesità infantile, l'Italia è stabile, uno studio del Ministero della Salute. C'è uno... È stabile e non siamo messi bene, si può dire? Giustina Ligobbi di Tutto Food, che ci dici? Allora, a parte Obama, Samcast, abbiamo all'interno di Tutto Food anche spazio nutrizione, dove appunto ci sono nutrizionisti, convegni scientifici, perché sappiamo quanto la sana nutrizione sia fondamentale per una corretta alimentazione e per la salute. Quindi fondamentale anche spiegare che cosa si mangia, quando si mangia, chi lo deve mangiare e in che modo, perché questo è fondamentale, e la dieta mediterranea è un valore nostro che dobbiamo comunicare a tutto il mondo. Io fra poco, tra l'altro, vado in centro a Milano, perché in Piazza del Duomo, in Via Mercanti, ci sarà la festa del biologico. Abbiamo coinvolto tutta la città, ci saranno convegni, perché anche il biologico oggi sta crescendo tantissimo in Italia ed è un momento per fare feste in città e spiegare i prodotti che verranno presentati non solo ai consumatori in città, ma anche in Fiera Milano. Sui broccoli, di cui Carlo pure voleva qualche abbiamo qualche notizia su cosa farà il cuoco di Obama? No, a parte il prezzo, perché costa 800, è vero che costa 850 euro l'ingresso per Barack Obama? Ci sono dei convegni, sì, a pagamento, si principio dei convegni a pagamento, ci sono naturalmente degli ospiti, si parlerà anche di insetti, perché questo è quello che verrà presentato, la ricerca nel futuro, dicono che mangeremo anche insetti. Farina di insetti e cioè, dintorni. 850 euro per mangiare degli insetti con i broccoli, però mi sembra un po' tanto. È un po' caro, sì, è un po' caro. Sì, però in città possiamo mangiare benissimo, perché Milano è cresciuta tantissimo e abbiamo un'offerta strepitosa. Noi come Tutto Food abbiamo anche una partnership con i GRE, i giovani ristoratori d'Europa, porteranno a Milano in Tutto Food una scelta di quelli che sono i prodotti di eccellenza di tutta l'Europa e li prepareranno all'interno di Tutto Food. Li stanno promuovendo anche in città, negli hotel 5 stelle o all'interno di Taste. Insomma, io credo che l'offerta oggi sia completa da chi vuole mangiare spendendo poco e mangiando bene, a chi invece vuole divertirsi e mangiare i broccoli. Torno a dire, diventeremo tutti vegani o tutti obesi al termine di questo Tutto Food, perché si parlerà, ma anche si mangerà, credo, abbastanza. Quindi grazie Giustina Li Gobbi per essere stata con noi, ci ha raccontato. Io però vi devo dire anche dove sarà Radio 24 in particolare, perché so che voi ascoltatori siete lì col taccuino pronti a prendere appunti, che volete venire a trovarci. Milano, Fiera, Padiglione 2, stand T12, T17. Ripeto, T12, T17, e avremo in diretta lunedì Cuore Denari Effetto Giorno, martedì Cuore Denari Focus Economia, e andiamo avanti mercoledì con tutti convocati, il team sportivo di Radio 24. Claudia Schiattone però resta qua perché lei sta nel weekend, la nostra assistente. Giovedì invece ancora essere, avere tutti convocati, e così abbiamo detto anche cosa farà Radio 24 insieme a Tutto Food. 800 24 00 24, Alberto da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sì, io manderei in pensione Pippo Baudo. Perché proprio già non in pensione. Se ne può più. È già in pensione, o no? Cosa fa? No, no, non è in pensione, lui ritorna continuamente, è come una minestra di pane, lui si rifà continuamente. Cos'è, direttore artistico di Domenica Inn? Direttore artistico della RAI, non smetterà no, non mai. Della RAI, però mi sembra poco presente Pippo Baudo, fra tutti i presentatori della è nostra già infanzia, in o sbaglio? È poco presente, no? E comanda sempre lui, è dappertutto, tutti i programmi li ma vuol tipo, fare, vuol, dicene vuol uno. Mettere bocca dappertutto. Ma dicene uno. Ma dicene uno, io ora per l'appunto la televisione la guardo poco, non sono un assiduo per la televisione, io ho bisogno di lavorare, ho bisogno di costruire, fare cose. Allora, io il guardo problema... poco Rai 1, però mi pare, ragazzi, ditemi qualcosa in regia, Paolo Corleone e Claudia Schiattone, è a Domenica Inn, direttore artistico, è stato, non è più, cosa fa più volte? Non lo sa nessuno, qua nessuno guarda, mi dispiace guarda per i colleghi di però, tutti ascoltano Radio 24, no, Radio 24, Sky, altre cose, almeno io personalmente non guardo, però mi pare che Pippo Baudo stia a Domenica, però ha ragione Carlo, è già abbastanza pensionato. Comunque Alberto, abbastanza non basta, non basta, lo vuole tutto, accogliamo la candidatura, va bene, grazie, grazie mille, ciao ciao, buon sabato, ciao. Conta anche la motivazione, perché conta certo. Dire voglio mandare in pensione Renzi, dovete dirci perché. È lì che si gioca poi la premiabilità della vostra telefonata con un bel libro a tema come ogni sabato e domenica mattina. Maria da Livorno, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a voi. Su cosa volevi intervenire, Maria? Senta, io vorrei intervenire rispetto al Comune di Roma e all'introduzione delle mense scolastiche e del cibo biologico, sì. O comunque a chilometro zero, eccetera. Io volevo dire che è un'iniziativa naturalmente lodevole, bella, perché comunque introdurre il cibo sano è importante. Però secondo me è altrettanto importante, sì. Anche l'educazione al rispetto del cibo. Da mamma e anche da educatrice che ha lavorato nelle scuole e quindi ha accompagnato molti bambini durante l'ora del pranzo a mensa, proprio al tavolino, ho potuto assistere allo spreco del cibo, perché molti dei nostri figli non sono abituati a mangiare niente, per cui molte cose proposte vengono buttate via. Parlo di piatti interi o a malapena consumati e poi buttati via, finiscono o nelle, sì. Nei cestini o al limite. Ha molta ragione, vero, guardi, purtroppo l'assessore quando abbiamo parlato con l'assessore giù. Di Roma è caduta dire, la linea, perché in realtà nel progetto dell'assessore a Roma c'è anche il fatto di recuperare gli avanzi e di consegnarlo alle famiglie meno abbienti. Io tra l'altro vi ricordo e lo ricordo anche all'ascoltatrice, a Maria, che ne abbiamo parlato, ci sono degli esempi, dei casi virtuosi, per esempio il maestro Giampiero Monaca di Asti ci ha parlato più di una volta a questi microfoni di come nella sua scuola stanno sperimentando con successo le mezze porzioni, cioè i bambini decidono prima se una cosa non gli va del tutto, magari prendono la mezza porzione, quindi c'è meno scarto. Ci si può lavorare d'accordo con gli insegnanti, con le famiglie, sono percorsi, quindi Maria hai fatto bene a toccare anche questo tasto. Grazie, buona giornata. Antonella, grazie. Da Livorno, prego. Da Milano, Antonella, eccomi, da Milano. Eccomi qua, ci sono, ciao. Sì, ciao. Buongiorno. Ciao. Dunque, io manderei in pensione Costanzo, Maurizio Costanzo, e metterei al suo posto Antonello Peluso, che è stato rottamato per conto mio molto presto. Insomma, prematuramente. Assolutamente sì, perché per carità il dottor Costanzo è una persona colta, intelligente, senza ombra di dubbio. Però non si può però guardare. Dopo tutti questi anni riproporre il solito format è inguardabile, diciamo che è inguardabile, ecco, tutto qua. Quindi Peluso mi sembra un ottimo giornalista. Poi accogliamo la sua candidatura. È sempre, brutto parlare di, diciamo, di altre persone, in questo caso, se vuoi, anche di un collega, di ti manderei in pensione. Però devo dire che anch'io Costanzo l'avevo messo tra quelli pensionabili, che era già in pensione, poi è riapparso. Devo dire che a me stupisce questo fatto, che evidentemente il più grosso problema dell'Italia sono i presentatori televisivi, perché al momento abbiamo Vespa, Baudo, Costanzo. Sì, poi abbiamo anche i Renzi, abbiamo però insomma sostanzialmente abbiamo dei presentatori. Hanno battuto anche i politici, quindi 800 24 00 24. Intanto vedo che sono arrivati a riscaldare i nostri studi padre Alejandro Solalinde e Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, che con lui sta viaggiando in questi giorni in Italia, e saranno presenti al Festival dei Diritti per raccontare una storia incredibile. I Narcos mi vogliono morto, è stato scritto questo libro a quattro mani tra queste due persone che si sono incontrate, e insomma questa vicenda sta facendo il giro del mondo, tanto che lui è candidato al Nobel per la pace 2017. Infatti siamo molto emozionati perché è qui con noi in studio. A tra poco. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo è la stoccata, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui, su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it, col TH. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. E allora 9:08, nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Messico e nuvole, ve l'avevamo annunciato, è in studio con noi un personaggio, piccolo di statura ma è un grande uomo sicuramente. È un Alejandro gigante. Solalinde, padre Solalinde, insieme a Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, insieme hanno scritto un libro, I Narcos mi vogliono morto. Lui è qua per parlare al Festival dei Diritti Umani che si tiene in questi giorni a Milano. Intanto benvenuto. Grazie, benvenuto Carlo. Benvenuto. Grazie. Allora, padre Alejandro capisce l'italiano, forse parla anche un po' di italiano. Ci stupirà. In ogni caso, Lucia è qua per tradurre una storia incredibile questa. Lui è un sacerdote messicano, fondatore di un centro di aiuto per persone che hanno bisogno, in transito, nella cittadina di Ixpetec. Non so se ho pronunciato bene, nel sud del Messico, per le sue attività si è trovato di fronte i Narcos, e scusate se non è poco, e ne è nato questo libro, I Narcos mi vogliono morto. È una storia appunto incredibile che sta facendo il giro del mondo e che vale anche, ma anche perché proprio c'è una taglia, su di lui, e quindi gira da molti anni con la scorta. Una storia che vale la candidatura per il Nobel per la pace. È una bella responsabilità. È preoccupato per questa candidatura, padre Alejandro? Teme questa responsabilità, candidato per il premio Nobel per la pace? No, no, non sto preoccupato. È tranquillo. La mia vita sigue uguale. Sono altri problemi? Sì. Sono altri problemi, per esempio quelli che le hanno creato queste persone della criminalità organizzata messicana, i narcos, e io vorrei arrivare proprio, partire proprio dall'inizio, dal momento in cui è nata anche la relazione tra Lucia e padre Alejandro. Lui si trovava nel suo centro che si chiama Hermanos en Camino, fratelli sulla strada, fratelli in cammino insieme sulla strada, dove ospita migranti che transitano dal Guatemala, dal Salvador e dall'Honduras diretti verso gli Stati Uniti. Cioè transitano in Messico e sperano, esatto, di riuscire a entrare negli Stati Uniti. Arrivare e sono Stati mezzo Uniti. Milione di persone ogni anno, così per dare dei numeri. E oltre al viaggio che affrontano e ai rischi che affrontano, un rischio più grosso che devono affrontare è quello dei narcos, che li prendono di mira perché per loro sono merce, sono una risorsa che loro utilizzano. Lui protegge questi migranti, è asserragliato nel suo centro, non sa che fare, scrive, telefona alla stampa internazionale e tra le persone che leggono questa notizia c'è Lucia. Chiederei proprio a te, Lucia, di raccontare questo momento, perché poi tu chiami Alejandro e lì nasce la vostra amicizia. Sì, era un giorno di dicembre, ho visto un'agenzia battuta così dal Messico che arrivava, dove c'era questo sacerdote asserragliato in un rifugio, aveva denunciato un sequestro di migranti da parte del crimine organizzato e aveva cercato di aiutare dei migranti che erano sfuggiti al sequestro, gli aveva dato ospitalità nel suo rifugio. Questo aveva provocato la furia dei narcos, che erano andati al rifugio e gli avevano detto: padre, lei ha un giorno per restituirci i migranti, se no veniamo a prenderceli e dato che c'è ci prendiamo anche la sua vita. E padre Alejandro era lì e non sapeva che fare e aveva chiamato la stampa internazionale. Una mossa che poi si è rivelata, direi, vincente. Perché... giusto? Perché l'unica cosa di cui hanno paura è la pubblicità, no? Ovviamente per avere potere deve svolgersi tutto nell'ombra. Nel momento in cui hai gli occhi del mondo puntati addosso, il gioco non funziona più. E effettivamente, appunto, anche dall'Italia, io stessa, spinta dalla curiosità, ho provato a chiamare. E vorrei chiedere proprio a Alejandro se si ricorda quel momento in cui ha telefonato in particolare questa giornalista italiana. Cosa vi siete detti? Cosa ha pensato? Certo, io no, conoscevo ella, ma ella mi ha chiamato e così comincia una conversazione con la stampa internazionale. Ma io avevo due strade, paura o la stampa, e ha scelto giustamente stampa. Di appoggiare. Per una volta siamo serviti a qualcosa la stampa, sì. Perché sa, padre Alejandro, ultimamente riceviamo molte critiche. Perché per i narcos, i migranti, questa è una domanda che ti chiedo anche di fargli rispondere forse in spagnolo, uh-huh, perché è più facile nella sua lingua esprimersi meglio. Perché per i narcos i migranti sono una risorsa? Perché li vanno a caccia proprio sui treni che li trasportano verso la frontiera con gli Stati Uniti? Perché nel mio paese, in Messico, il narco e il governo non sono cose distinte. Perché nel mio paese, il Messico, i narcos e il governo non sono due cose separate. Infatti, in un'intervista ha anche detto: il Messico è un narcostato. Ah, sì, è. Migliore. In Messico hai un narco cleptocrazia. Hai una narco cleptocrazia. Lucia, come vuoi tradurre? Si capisce benissimo, direi. Esatto. Narco cleptocrazia. I narcos hanno sequestrato interi pezzi di istituzione. La maggior parte delle istituzioni sono, sì, infiltrate dal narcotraffico. E cleptocracia, perché son governantes ladrones. Conosciamo molto bene la cleptocrazia anche in Italia. Invece una cosa che non conosciamo è proprio questo momento della vita dei migranti, perché noi siamo abituati, padre Alejandro, a vederli arrivare con delle navi sulle coste italiane. Invece il Messico è terraferma, quindi si transita, e le storie di queste persone hanno dei testimoni. Lei è un testimone. Cosa succede a questi migranti che sono presi di mira dai narcos? Fanno delle fini terribili, bisogna dirlo. Cuando, forse in Italia questa storia non è conosciuta. Ellos vienen de Centroamérica y Sudamérica. Cuando pasan por México apenas llegan y son víctimas de muchos delitos. Pueden ser extorsionados, pueden ser secuestrados, pueden ser tratados con fines de explotación laboral o sexual, pueden también venderlos en partes para tráfico de órganos, sí, pero también para la prostitución. Lucia. I migranti passano per il Messico, arrivano dal centro e dal Sud America. Appena entrano in territorio messicano, che è in gran parte sotto il controllo del crimine organizzato, subiscono una serie di delitti che vanno dalla estorsione ai sequestri per vari fini, che possono essere la schiavitù lavorativa, la tratta per fini sessuali, il traffico di organi. Addirittura ho letto nel libro che in alcuni casi, quando i narcos sanno che il migrante ha dei parenti negli Stati Uniti, lo sequestrano per chiedere un riscatto. Talmente è efficiente, purtroppo, questa organizzazione, che qualunque profilo di questi migranti ha un interesse economico. Sì. Per questi tutto è d'argento, tutto è denaro. Quindi un poco come lo estorsionano, sì, e come lo sequestrano quando li amano. Come ho detto, la polizia sta infiltrata. Uh-huh. Puoi parlare in spagnolo, lo traduco. Praticamente tutte le istituzioni praticamente stanno infiltrate dal crimine organizzato. Praticamente tutte le istituzioni sono infiltrate dal crimine organizzato. Però la peor institución es el Instituto Nacional de Migración. Quella più infiltrata è l'Istituto Nazionale della Migrazione, che è la polizia che si occupa dei migranti. Perché ellos mismos han estado en contacto con cárteles, con el crimen organizado. Sono in contatto col crimine organizzato, significa che sono loro stessi a fermare i migranti, a consegnarli nelle mani del crimine organizzato. Per esempio, ellos mismos podían secuestrar, bueno, Migración detenía a grupos de 17, 20 migrantes y los entregaba al cártel de los Zetas para que los secuestraran. E funzionava così: l'istituto di immigrazione, la polizia migratoria, fermava una decina, una ventina di migranti e li consegnava direttamente nelle mani dello Zetas, che sono uno dei principali cartelli del narcotraffico messicano. Ecco, capite, dico una cosa per padre Alejandro e poi un tema che riprenderemo magari dopo le informazioni sul traffico, che quando noi parliamo del fatto che ci sono c'è la possibilità che in alcune organizzazioni non governative di volontari che fanno soccorso dei migranti in navi siano corrotti o siano infiltrati da parte degli scafisti e dei trafficanti è un'ipotesi, ma quello che accade in Messico è molto di più. Sono addirittura le istituzioni, la polizia di frontiera, che è corrotta. È anche molto più di un'ipotesi, se vogliamo, nel, esatto, senso che ci sono le prove, e il libro in questo è anche incredibile, si parla anche di fosse comuni. E io personalmente ringrazio anche il fatto di aver di nuovo parlato della questione del traffico d'organi, perché è una cosa che ricordo che 15-20 anni fa se ne parlava spesso ed era una paura che avevamo, e poi improvvisamente si è smesso di parlare di questa questione come se non esistesse più, invece esiste, come, e quindi ci sono persone a cui vengono asportati dei reni per essere venduti. 800 24 00 24, torniamo tra poco di nuovo con padre Alejandro Solainde e Lucia Capuzzi, parleremo anche del muro che Trump vuole costruire, se questo muro servirà per fermare questa ondata migratoria oppure no, parleremo per il fatto che di questa serie TV dei Narcos, che ha un grande successo, padre Alejandro, e per uno come lei che rischia la vita proprio da parte loro, c'è da farsi qualche domanda, no? Sul perché di questo e di tanto altro. Tra poco, dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America. Il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. E allora siamo in diretta dagli studi di Milano Monterosa con Padre Solalinde, Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, che insieme a lui ha scritto il libro I Narcos mi vogliono morto. E Padre Alejandro, tra l'altro lei era un prete normale, faceva la vita di tanti sacerdoti, poi a un certo punto c'è stata una svolta, un cambiamento. Un prete borghese, dice nel suo libro, che è un'espressione molto bella. Come mai? Cos'è successo? Los pobres me han cambiado. I poveri mi hanno cambiato. Me han evangelizado. Mi hanno evangelizzato. Soprattutto los migrantes. Soprattutto i migranti. Lei ha chiesto di andare nel posto peggiore, più, dove c'erano più poveri di tutti, al suo vescovo. Lo che pasa è che io dejé la parrocchia per seguir mi vocazione, che è mia, come misionero itinerante. Ho lasciato la parrocchia per seguire la mia vocazione spirituale, che è quella di fare il missionario itinerante. Entonces, ahí en la calle, en el camino, en la vía, ahí convivo con los migrantes. E convivo con i migranti per strada, sono un prete di strada. Ecco, questo fenomeno dei migranti che Padre Alejandro ci aiuta a conoscere da un altro punto di vista, in Messico, il transito da quelli che provengono dal Guatemala, dal Salvador e vanno verso gli Stati Uniti, e che noi, come dicevo prima, conosciamo attraverso i barconi che arrivano lungo le nostre coste. Nonostante questi rischi, questi pericoli che i narcos minacciano queste persone, la vita che si rischia, in alcuni casi queste persone rischiano più della loro vita, perché i pericoli che lei ha descritto sono peggiori, il traffico di organi, la prostituzione, ancora peggio forse di morire. Nonostante questo partono ancora nella speranza di raggiungere dei posti migliori dove vivere, l'Europa qua o gli Stati Uniti nel vostro continente. Perché? Che idea si è fatto lei? Perché queste persone, nonostante i pericoli, sbagliano un calcolo oppure no? Es difficile entender una explicación de mi vida si no se tiene fe. Es muy difícil. È difficile capirlo se non si ha fede. Io lo interpreto alla luce della fede. Porque yo creo en Jesús y creo en su proyecto, pero no en Jesús oficial, no en el Jesús de franquicia, sino un Jesús real que está ahí en los evangelios, un joven maravilloso. Però credo in un Gesù che non è il Gesù ufficiale, il Gesù da immaginetta, ma è un Gesù reale, che è quello descritto nei Vangeli. Y pero porque los migrantes. Sí, entonces los migrantes para mí valen mucho, porque para mí ellos son Jesús. Ahí está Jesús. Entonces, vale la pena acompañarlos. El riesgo es constante. Yo sé que en cualquier momento me van a matar, pero vale la pena. Penso che ne valga la pena di accompagnare i migranti. So benissimo i rischi che corro, so che in qualsiasi momento mi possono uccidere, però vi assicuro che ne vale la pena. Ma lei non ha mai sconsigliato a qualcuno di loro di proseguire, dicendogli di tornare indietro? Cioè, questo viaggio, alla fine, facendo un bilancio, secondo lei vale la pena il viaggio che fanno i migranti? Lo che sì. Le preguntavo è se vale la pena il viaggio dei migranti. No, es que es otra cosa que ustedes no pueden entender, porque el sistema neoliberal capitalista, con el norte geopolítico, Europa, Estados Unidos, han provocado esa crisis en el sur. Lucia. Il nostro sistema neoliberale capitalista selvaggio il nord del mondo, Europa e Stati Uniti, hanno provocato una vera e propria crisi umanitaria nel sud del mondo, e da questa crisi fuggono i migranti. Mi pare di capire che, secondo lui, il muro che Trump vuole costruire alla frontiera col Messico non servirà. Acabo de contestar esta pregunta que me hiciste. Entonces, los migrantes del sur van al norte, porque ahí hay lo que les quitaron en el sur. I migranti vanno dal sud al nord perché lì nel nord c'è quello che gli hanno tolto nel sud. Semplice, no? Detto con tre parole. Direi di una chiarezza veramente incredibile. Vanno al nord perché lì c'è quello che quelli del nord gli hanno portato via e hanno creato quello che hanno creato. Io volevo fare un'altra domanda, perché in realtà Tutto questo ha portato anche ad avere dei problemi con la gerarchia cattolica messicana, e questo mi sembrava interessante, nel senso che lei giustamente dice: io sto in mezzo alla strada, mentre la chiesa messicana è residenziale. Io penso che bisogna andargli incontro, non bisogna aspettare. Era quello che si diceva prima anche il prete borghese, il fatto di stare nella tua parrocchia, aspettare che loro arrivino. E infatti ho letto anche che lei, cioè capisco perché ha avuto dei problemi con la gerarchia ecclesiastica, perché lei in un'intervista ha detto una cosa molto precisa. Lei dice: bisogna tornare al Vangelo, bisogna sopprimere lo Stato del Vaticano, la Chiesa nella sua dimensione politica. I vescovi non devono più essere dei principi, dei funzionari di uno Stato, ma soltanto guide spirituali. È così? Así es. La Iglesia se desvió hace muchos años, 1400 años, de el propósito de Jesús, que sería una santa sede para enseñar un proyecto nuevo de vida. Traduzione? La Chiesa in un certo senso ha cambiato strada rispetto, una parte della Chiesa si è ha cambiato strada rispetto agli insegnamenti originali di Gesù, a cui bisogna tornare al Vangelo. Entonces, Jesús era itinerante. El Hijo del Hombre no tenía un lugar donde reclinar la cabeza. La Chiesa era, Gesù era itinerante, il figlio dell'uomo non aveva un posto dove reclinare il capo. È il pensiero di San Francesco tutto questo? Sì, come San Francisco. Però la Iglesia preferiò los palacios. El Vaticano no solamente es un Estado, no solamente es una entidad política, es también un palacio. Allora, noi stamattina, padre Leandro, chiediamo ai nostri ascoltatori chi vorrebbero mandare in pensione. È un gioco, perché un grande giocatore di calcio italiano che si chiama Francesco Totti ha annunciato il ritiro. Il principe consorte d'Inghilterra Filippo ha annunciato che si ritirerà a vita privata, oltre 90 anni. Quindi noi chiediamo stamattina ai nostri ascoltatori chi manderebbero in pensione. Quasi tutti i nostri politici hanno risposto, vorrebbero mandarli in pensione. Lei chi vorrebbe mandare in pensione? Il capo dei Narcos. ¿Quién quería jubilar, padre, si pudiera? Si potesse scegliere. A Trump. A Trump. Ecco, questa poteva essere un'altra risposta, che previene forse la risposta di... Però posso dire sulla questione Trump che anche su questo ha dato una bellissima risposta, perché ha detto: Trump passerà a un certo punto, mentre il problema dei migranti resterà. Quindi forse il problema più che Trump è che bisogna occuparsi dei migranti. Sí. Trump va a ser un fenómeno pasajero mientras los migrantes se quedan. Sí, sí, muy pasajero. Molto passeggero. Muy pasajero. Senta, io glielo dico, padre, io ho una curiosità sul Messico che riguarda un personaggio che è stato un personaggio popolare nel mondo fino a qualche anno fa, che poi è sparito. Io glielo chiedo intanto se ci vuol pensare, poi dopo mi dà una risposta. Che fine ha fatto il subcomandante Marcos? Che per qualche anno non si parlava d'altro, poi è sparito completamente. Se ci vuole pensare, poi mi risponde. E, intanto una curiosità che riguarda invece quello che diceva Carlo prima, perché immagino i nostri ascoltatori, qualcuno che penserà: ma i preti devono occuparsi dell'anima, di aiutarci a capire l'aldilà, eccetera, non a combattere, a fare delle cose concrete nella vita. Glielo chiede il Vangelo di occuparsi dei migranti, però in pratica ha già risposto prima. Gesù disse: cercate prima il regno di Dio e sua giustizia. Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Anche questa mi sembra due parole. Padre Leandro riesce sempre a darti delle risposte importanti. L'altra questione invece che volevamo chiederle è questo successo quasi imbarazzante di questa serie televisiva che è I Narcos, vista in tutto il mondo, celebrata. Ci sono persone che vanno in giro con la maglietta di Pablo Escobar. Riguarda il Colombia, non nel Messico, però credo che la situazione sia molto simile. Che effetto le fa, lei che ha vissuto con l'incubo dei Narcos che volevano farlo fuori, questa cosa? Nel mio paese, in Messico, molti giovani stanno pensando essere narco. È una cultura, narca, nella musica, narcocorridos, nella roba, in muchas cose. Nel mio paese, in Messico, i giovani sognano di diventare narcos, cioè tutta una cultura fatta della musica, le canzoni, le magliette, i romanzi. Ma loro forse non sanno le atrocità che commettono queste persone, forse. Sì, sì. Muchos jóvenes se dejan contratar para sicarios como parte del... Dicen, no me importa pasar 2 años de mi vida, pero voy a tener todo, aunque después me maten. Molti ragazzi si fanno ingaggiare dai narcos come sicari, dicono non mi importa se dopo 2 anni mi uccidono, perché hanno tutti una vita molto breve, l'importante è che in quei 2 anni faccio, ho tutto, ho soldi, ho potere, posso far ciò che voglio. Abbiamo un ascoltatore, intanto voglio dare spazio anche agli ascoltatori, che forse ha da dire qualcosa che può interessare anche padre Alejandro, credo di sì. Mimmo dalla provincia di Taranto, buongiorno. Buongiorno, sì, mi sente? Sì, forte e chiaro. Niente, io avevo già dettato la persona che è Trump, la persona da mandare in pensione, ma non solo per il discorso del muro del Messico. Io partivo soprattutto dalla sanità che sta togliendo agli americani. Quindi in pensione Trump, Mimmo, grazie. La motivazione c'è, quindi lo iscriviamo nel nostro concorso di oggi. Ha sentito Alejandro? Io voglio sentire la risposta su Marcos, Alessio. Ecco, sì. Non è che stiamo tutti aspettando la risposta sul subcomandante. Il comandante Marco tiene un lugar nella storia del Messico. Sì. Il comandante Marcos ha un posto nella storia del Messico. Una cosa solo che aggiungo io è che anche Marcos è andato in pensione come capo ufficiale si è autopensionato. Sì, è vero. Sì, perché tiene una autorità morale. Y desafió a un gobierno tan corrupto como Carlos Salinas de Gortari en el momento más poderoso. E ha un'autorità morale però forte ancora in Messico, perché ha avuto il coraggio di sfidare un governo corrotto come quello di Carlos Salinas de Gortari, che al momento era molto potente. Mm-hmm. Poi certamente non può andare in giro a farsi riconoscere, perché insomma anche lui ha commesso qualcosa di illegale, quindi naturalmente non è che possiamo ritrovarci. No, in realtà è un uomo libero, se non ricordo male. Lui in realtà è in un momento in cui potrebbe togliersi il passamontagna, come si suol dire. Sì, tutti i crimini contro di lui sono stati archiviati. Esatto. Lei dice tra l'altro che senza suo fratello non avrebbe potuto fare quello che ha fatto, cioè di dedicarsi a questa vocazione. È bello che una persona come lei ricordi che un grosso aiuto gliel'ha dato suo fratello. Perché? Mio fratello Raul, una gran persona. Es una gran persona, a pesar de que es un año y medio mayor que yo, es como mi segundo padre. È solo un anno e mezzo più grande di me, eppure come se fosse il mio secondo padre. Lo ha aiutato a fare gli studi, lo ha mantenuto lavorando col suo lavoro. Non solamente mi ha aiutato economicamente, però también él me alienta, nos coincidimos mucho, él hace cosas muy buenas, ha ayudado a mucha gente, siempre ha ayudado, es una persona que se ha vuelto para todos. Senta, noi in questi giorni si parla molto in Italia del fatto che, come le dicevo prima, queste organizzazioni non governative di volontari che hanno delle navi che pattugliano il Mediterraneo e aiutano i gommoni, le barche dei migranti a non affondare, e vengono portati sulle coste italiane. C'è un magistrato italiano che sta indagando su possibili collusioni con i trafficanti di esseri umani, con i trafficanti di clandestini. Che effetto le fa? Crede possibile che delle organizzazioni non governative fiancheggino gli scafisti, i trafficanti di uomini, insomma la criminalità organizzata? Usted cree que las ONGs sean cómplices? Sí. Yo creo que las ONGs no. En México las ONGs no. Pero el gobierno sí. Io credo che, mi riferisco al caso messicano, in base alla mia esperienza, le ONG no, non sono complici. Perché fa questa distinzione? Posso arrivarci? Perché le organizzazioni non governative sono dei volontari, quindi forse lei crede nelle buone intenzioni di queste persone. Perché fa questa distinzione? Es que en México el voluntariado es muy importante y son personas de la sociedad civil que ayudan. En las instituciones del gobierno es las que están infiltradas. i volontari, le persone che gli attivisti per i diritti umani sono una forza nel Messico e sono appunto, hanno buone intenzioni quando si avvicinano ai migranti. Lo sono, io credo, anche in Europa, anche nel Mediterraneo. Poi se le indagini accerteranno delle responsabilità individuali precise, staremo a vedere. Volevo chiedere se, forse la domanda è doverosa, se Papa Francesco pensa, secondo lei, che possa fare delle cose, per esempio forse di avvicinarsi alla cosiddetta teologia della liberazione, che è nata appunto in America Latina negli anni 70, e ci aiuterà Papa Francesco? Il Papa Francisco hasta en eso está cambiando, porque no solamente acepta la teología de la liberación, sino que teólogos muy importantes como Leonardo Boff son sus asesores. Piccola traduzione, sì. Il Papa Francesco sta cambiando in tutto, anche in questo. Ci sono dei teologi della liberazione come Leonardo Boff che sono tra i suoi, che sono stati da lui e sono tra i suoi consiglieri, anche perché essendo diciamo sudamericano, penso che Papa Francesco conosca la situazione meglio sicuramente di tanti altri. Voglio fare una domanda anche a Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, che ha avuto per una volta il coraggio, la forza, la capacità di uscire dall'ambito delle nostre redazioni e andare a conoscere Padre Leandro, quindi mettendosi in gioco, scrivendo questo libro. Che cosa ti porti dietro di questa esperienza, e anche se credi in questa candidatura per il premio Nobel per la pace, se pensi che possa fare strada? Difficile dirlo in base a che cosa succederà al comitato di Oslo. La verità è che comunque già solo la candidatura è un segnale importante per i migranti, non solo per il padre Alejandro, ma riconoscere le migrazioni come il grande nodo geopolitico attuale. Appunto, citavamo prima Papa Francesco è uno di quelli che si è più speso maggiormente in questi anni di pontificato per i migranti e per mettere al centro la migrazione. Spesso noi giudichiamo questi fatti appunto comodamente seduti alle poltrone di casa nostra, ed è inevitabile, perché non siamo tutti dei reporter, non siamo tutti dei marinai, non siamo, siamo delle persone normali. Ma cos'è la cosa che ti ha sconvolto di più in questo viaggio che hai affrontato andando in Messico, poi conoscendo Padre Alejandro, scrivendo il libro con lui e conoscendo questa realtà dei narcos e dei migranti? A me sconvolge l'invisibilità che ha qua in Europa il dramma messicano, di cui praticamente non si parla. Mi sconvolge la normalizzazione della narcotizzazione della società messicana. L'infiltrazione del narcotraffico è onnipresente nelle istituzioni ed è normale che la polizia consegni i migranti al crimine totale, e in Europa tutto questo dramma messicano passa assolutamente normale. In realtà è una guerra invisibile che ha fatto 250.000 morti in 10 anni. Dati, numeri incredibili, clamorosi, che da soli... E soprattutto, come appunto stai dicendo, da noi non viene mai raccontata così, viene raccontata come una questione di qualcuno che salta una frontiera, che quindi bisogna mettere un muro, come se fosse quella la questione di tappare dei buchi, quando in realtà è una questione culturale gigantesca che tocca tutto il Sud America, non semplicemente il Messico, è solamente che quello è il passaggio per cui moltissime persone sperano di salvarsi la vita e scappare da, come ci diceva prima, scappare da ciò che in realtà abbiamo creato noi lì. Io personalmente starei qua ore ad ascoltare Padre Alejandro e Lucia Capuzzi. So che hanno degli appuntamenti però in questi importanti giorni, forse proprio oggi al Festival dei Diritti Umani, se vuoi dare l'appuntamento per chi fosse interessato a venirvi a conoscere. Sì, questo pomeriggio alle 17 Padre Alejandro sarà al Festival dei Diritti Umani alla Triennale a raccontare un po' perché i narcos lo vogliono morto e che cosa accade ai migranti in Messico. E già che ci siamo, in realtà, per chi fosse interessato, visto che siamo una radio nazionale, Padre Solanide non sarà solamente a Milano, ma l'8 è a Reggio Emilia, il 9 a Bolzano, il 10 a Lecco, l'11 a Pesaro, il 12 a Verona, il 13 e il 14 a Udine, il 15 a Modena, il 16 a Roma, il 18 a Torino, il 19 a Lucca, il 20 a Grosseto, il 21 a Milano, 22 Verbania, 23 Parma e 24 Vicenza. Alla un tour della luce. Un tour veramente bellissimo. Io vi ringrazio, mi vorrei alzare per dare la mano a Padre Alejandro, lo faccio anche se perché è un piccolo uomo di statura, lo vedete, ma è un grande uomo in realtà, e ci ha insegnato veramente tante cose. Continueremo a essere aggiornati tramite Lucia su questa vicenda. Grazie intanto per essere stati con noi, in bocca al lupo. Grazie veramente, grazie. Prego. Grazie a voi. Prego. Allora, in regia con Paolo Corleone e Claudia Schiattone vi chiedo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo dare una pausa sicuramente, poi abbiamo gli ascoltatori e naturalmente non manca l'appuntamento con Cloud Me Up tra poco. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Eccoci qua, allora, anche oggi due storie, usciamo un po' frastornati dalle parole di padre Leandro Solalinde. Non ne usciamo in realtà, non ne usciamo, non vogliamo, ma è bello uscire, così, bello è andato così. Via, non è qui più in studio con noi, ma... Ha lasciato qualcosa, sì. Allora, sì. Ci occupiamo di cose, di altre cose, i progetti che cercano il nostro e il vostro aiuto, cari ascoltatori. Crowd Me Up, anche questa settimana due storie. Cominciamo intanto i nostri giurati, Egle da Trapani, che abbiamo già conosciuto, e Angela da Lecco, l'ascoltatrice. Buongiorno Angela, benvenuta. Buongiorno. Poco spazio anche alle sue parole, Angela, sui temi della puntata, però tra poco invece conosciamo i due progetti da mettere a votazione. Vai! Cominciamo con il primo. Non casco più. Gli studenti dell'Istituto Gaia Aulenti di Biella hanno ideato e realizzato il prototipo di un casco. Sì, sì, proprio un casco di quelli che si usano per andare in moto, intelligente però, pensato per la sicurezza di chi va in moto. Si chiama Non Casco Più, più scritto più, ed è capace di rilevare la stanchezza e il tasso alcolemico di chi lo indossa, ma anche di monitorare il grado di inquinamento dell'aria. Il prototipo ha suscitato molto interesse, ma per migliorarlo ulteriormente servono 5.000 euro, come ci racconta Giuseppe Aleci, professore dell'Istituto Gaia Aulenti di Biella. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Professore, un minuto di tempo, poco più, per spiegare come e perché sostenere questo progetto, Non Casco Più. Ok. Il nostro casco nasce sui banchi di scuola, appunto porta la firma degli studenti del terzo anno dell'IPSIA, della Scuola Gaia Aulenti di Biella. Il primo prototipo, come avete detto voi, è stato presentato a ottobre a Maker Faire di Roma del 2016 e si prefiggeva uno scopo di sicurezza stradale, ovvero permetteva il controllo dell'affaticamento del conducente della moto, controllo assunzione alcolici, con invio di SMS, composizione GPS ai tutori se il conducente è minorenne, e una prima protezione contro inquinamento con attivazione di una mascherina di protezione. Scopo adesso della nostra raccolta fondi è un ulteriore utilizzo del casco per una mappatura dell'inquinamento di zona cittadina. Vorremmo realizzare nuovi sensori selettivi di inquinamento per il casco. In questo modo non ci sarà più bisogno di centraline fisse che mappano solo alcune zone o droni che volando a una certa altezza non riportano dati corretti sulle polveri sottili. E i comuni avranno i dati dinamici, ovvero posizione GPS e tipologia di inquinamento, direttamente forniti dai caschi della Polizia Municipale in moto. Dong. E questo è un sogno di ragazzi di 16 anni che pensano ad altri ragazzi, quindi votateci, supportateci. Bravo, è stato okay. Anche nei tempi, professore, bravo, naturalmente, grazie. Ai nostri giurati di restare concentrati, perché adesso presentiamo il secondo progetto, che è molto diverso. Vai, si chiama Acci Books ed è il primo sito italiano di book sharing, condivisione di libri, tanto per dirla in italiano, che permette appunto di scambiarsi gratuitamente i libri. Il sito è online dal 2014, in questi anni ha già favorito migliaia di scambi. Ma Accio Books vuole crescere ancora per diventare un vero e proprio social network dedicato ai libri, dove raccogliere esperienze, consigli e parole dei lettori d'Italia. Gloria Pozzoli, fondatrice di Accio Books, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao. Buongiorno. Anche a te un minuto di tempo, poco più, per spiegare come e perché sostenere questo progetto. Sì, Acebooks è un sito web per lo scambio e la vendita di libri usati. Ad oggi abbiamo un database che conta quasi 35.000 libri messi a disposizione dai nostri utenti per gli altri utenti. Lo scambio di libri è una pratica semplicissima che permette di ottenere libri in maniera praticamente gratuita. Senza nessuno scambio di denaro, io do un libro a te, tu ne dai uno a me. L'unico costo è quello della spedizione, che con piego di libri, una spedizione apposita, è solo di 1,28 €, quindi è molto conveniente. In poche parole, si usano i libri che non ci sono piaciuti per ottenerne in cambio altri che invece desideriamo. Con questa campagna di crowdfunding vorremmo rendere Acebooks utilizzabile anche da chi non vuole dare via i propri libri, quindi renderlo un social network dedicato ai libri, quindi utilizzabile anche da chi vuole semplicemente parlare di libri, scoprire nuovi libri o parlare con altri appassionati. Bah, meraviglioso, ancora prima che il gong segnalasse la fine del tempo, Gloria, bravissima. Accipicchia direi per Acebooks. Allora, ascoltatori, Egle da Trapani, quale delle due storie vi ha convinto di più? Il casco intelligente la o, seconda, o l'app per la scambiarsi seconda, i libri? L'app, il l'app. Book sharing. Perché, book sharing. Perché Egle? Perché avvicinare i ragazzi nuovamente alla carta, solo alla carta, è molto importante, e soprattutto avvicinare i ragazzi alla lettura, perché lei sa meglio di me che si legge poco, poco e niente. Poco. Brava Egle, benissimo, questa è brava per la motivazione del voto. Angela D'Alecco, quale dei due progetti sceglie? Allora, io ho apprezzato moltissimo quello che ha scelto la signora, però mi sembra buono anche il primo, sceglierei il primo, quello del casco. Il casco, chiamiamolo perché così, casco anche intelligente. Per i giovani che sono più hanno una sicurezza in più. Certo. Penso, no? Hanno... Benissimo. E anche per l'inquinamento. Si arriva sani e salvi in fondo al viaggio e poi si prende un bel libro in scambio su Acebooks, così abbiamo fatto tombola. Quindi c'è un ex aequo, complimenti a entrambi i progetti, Non Casco Più e Acebooks, e quindi grazie a Gloria Pozzoli e Giuseppe Aleci per essere stati con noi, complimenti, un saluto, trovate tutto sulla piattaforma di Eppela naturalmente, esatto. E anche sul sito di Radio 24 la pagina Si Può Fare e a quella di Crowd Me Up, quindi andate, cari ascoltatori, se volete, e date il vostro sostegno. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Eppela. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta... Si può fare... Cronache da un paese migliore. I messed up tonight. I lost another fight. I still mess up, but I'll just start again. I keep falling down. I keep on hitting the ground. But I always get up now to see what's next. Birds don't just fly. Questa è Si Può Fare, come tutti i sabati e le domeniche mattina su Radio 24. Questa che abbiamo appena ascoltato, anzi che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, è Try Everything di Shakira, canzone che ci è stata suggerita da Alessia su Facebook. Alessia che saluto tanto, tantissimo, lei sa perché. Potete inviarci i vostri Si Può Fare in Musica, come sapete noi siamo sempre in cerca di dei Si Può Fare in Musica, ovvero se siete dei cantanti, dei musicisti, dei compositori, anche semplicemente degli ascoltatori, sentite una canzone che secondo voi ben racchiude del concetto di si può fare, beh, vi chiediamo di segnalarcela, così la mettiamo sui nostri social e la faremo anche sentire, anche con la vostra dedica, se ci mandate la dedica. Ce li potete mandare alla nostra mail sipuofare@radio24.it oppure sui nostri profili social. Facebook è sipuofare-radio24, Twitter è chiocciola sipuofare24, chiedo scusa, oppure sui nostri account personali. Il mio di Twitter è @CarloGabardini e c'è anche il mio @AleMaurizzi. Poi c'è anche Facebook, basta, io ce l'ho anche Facebook. Chiudiamola qua con tutti questi Snapchat. Con tutti questi social, mi sento male. Snapchat, te lo dico, fa paura. Cioè, questo nome Snapchat lo sto usando paura. Molto poco ultimamente, più Facebook e Instagram adesso. Allora, questa è una puntata dove abbiamo tante cose che ci stanno a cuore. Anche la prossima piccola storia che vi andiamo a raccontare, in realtà è un appuntamento. Io do subito la parola, lo abbiamo convocato questa mattina con noi per raccontarci tutto, Francesco Grosso, responsabile della comunicazione della Onlus Handicap sulla testa. Ciao Francesco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, un appuntamento bello. Dallo tu direttamente, perché io presento la tua Onlus Handicap sulla testa. Certo. Attiva dal 1989 a Milano, ha deciso da quest'anno di organizzare la prima edizione di gare sportive per persone disabili intellettive all'Arena Civica di Milano. Io ho detto solo la cornice. Francesco, raccontaci tutto. Certo, ci sentiamo proprio dall'Arena di Milano in questo momento, dove tra tre quarti d'ora circa ci sarà lo start delle gare. Ci sarà movimento. Ci sarà movimento, sì, è già iniziato parecchio movimento e devo dire che però innanzitutto il primo ingrediente è l'entusiasmo. Siamo molto contenti perché, come hai detto giustamente tu, è la prima edizione di questo appuntamento. Sia sempre paura quando si fa una prima edizione di qualcosa che vada tutto bene, no? E quindi speriamo che vada sì, bene. Guarda, poi in realtà devo dire che l'ingrediente principale è appunto l'entusiasmo e dall'altra parte è anche un po' la sfrontatezza, perché devo dire che stamattina entrando all'Arena Civica di Milano ci siamo detti un attimo, forse l'abbiamo fatta grossa stavolta, però poi sinceramente dopo, quando abbiamo fatto il secondo passo, eravamo semplicemente felici e vogliosi di iniziare. Gli atleti stanno arrivando, sono più entusiasti di noi, assolutamente, sono molto competitivi più di quanto credessi, anche con quella punta di nervosismo, di tensione giusta agonistica prima della che ci vuole, giustamente. Molta. Questo è un appuntamento che riguarda naturalmente Milano, la città di Milano, quindi chi oggi volesse andare, l'ingresso è gratuito, aperto a tutti naturalmente, quindi andate e partecipate, però vale per tutti, lo sport è importante per tutti, a maggior ragione Francesco per chi convive con una forma di disabilità, è una nuova frontiera, si parla molto adesso di questa coppiata, va quasi di moda. Certo, sì, va quasi di moda, infatti come sempre quando le cose vanno di moda all'improvviso si scoprono, ma sì. In realtà noi pensiamo che lo sport sia un grande mezzo di coesione sociale, sia ovviamente tra normodotati ma sia anche tra disabili, e pensiamo che sia un ottimo modo per favorire l'integrazione di persone disabili che in questo momento sicuramente non hanno nulla da invidiare a nessun altro, anzi in generale già nella vita quotidiana il nostro obiettivo è creare delle relazioni assolutamente paritarie. Questa giornata che stiamo organizzando non fa altro che sottolineare questa volontà di creare questa relazione assolutamente paritaria. Giustissimo. E oggi sicuramente l'ingrediente principale è divertimento, però allo stesso modo è anche voglia di integrazione. Ricordiamo a tutti che comunque l'entrata è gratuita e che, come stavi giustamente dicendo, la giornata è atta all'integrazione, quindi sono invitati tutti, non è che bisogna, chiunque voglia può partecipare. Però regine sono le competizioni, le gare. Certo. Ci dici qualche gara, qualche specialità? Guarda, allora le gare molto attese sono la corsa sugli 80 metri. Sì. Il lancio del Vortex, che a questo nome è un po' esotico, ma in realtà è semplicemente l'antesignano del lancio del giavellotto. Okay. Come mai 80 metri? La corsa sono 80. 80, sì, sono quei 20 metri in meno. È l'IVA, è lo sconto, è l'IVA, avete tolto l'IVA, diciamo, il 22. Esattamente. Sì, quelle esatto, le incassa lo Stato al direttamente. 20, esatto. Noi abbiamo deciso di togliere, diciamo, le tasse e quindi sostanzialmente fare 80 metri. Perfetto. E poi ci sarà la staffetta, che sarà, diciamo, anche la competizione più attesa in qualche modo, perché tra i possibili invasioni di corsie ha un alto valore anche simbolico, Francesco, la staffetta. Esatto. Beh, insomma, qui si potrebbe parlare per ore, ma noi non lo faremo. Si rischia di divertirsi moltissimo. Esatto, insomma, e quindi la staffetta che sarà tra l'altro appunto a conclusione, diciamo, delle gare di questa mattina, sarà sicuramente il momento, come dire, di festa, di chiusura delle competizioni. Poi al pomeriggio invece ci saranno dei momenti dimostrativi, cioè calcio integrato per non vedenti e esibizioni di karate. Bellissimo. Bello. Quanta fretta, ma dove corri? L'organizzazione da parte di Handicap sulla testa all'Arena Civica di Milano tutto il giorno. Siete ancora in tempo per affluire, se anche venite da fuori Milano. Grazie Francesco Grosso. Grazie. Grazie a voi per la diretta e viva. Evviva. Allora è tutto, noi ringraziamo Andrea Piana, Claudia Schiattone, Paolo Corleoni, come sempre mi sta andando via la voce a questo punto della mattinata, noi ci sentiamo domani 8:30-10 con Si può fare, diremo anche qual è l'ascoltatore che ci ha convinto di più e che ha vinto un libro. Questo però domani, ciao da Alessio Maurizio e ciao da Carlo Gabardini e a chi ci ascolta in podcast.